Concetta nasce a Mereto di Tomba, in provincia di Udine, il 14 aprile del 1908. È l'ultima di 10 figli. I genitori sono Giuseppe Bertoli e Felicita Marcuzzi. È una famiglia contadina, povera, ma sono genitori onesti e ricchi di fede. Il 16 aprile fu battezzata e le furono imposti i nomi di Concetta e Oliva. E proprio questa numerosa famiglia dovette ben presto accorgersi che il dolore, per divino disegno, doveva essere di casa lì da loro. Infatti la madre di Concetta morì nel dicembre del 1909. La nostra futura apostola non fece in tempo neppure a conoscerla bene. Poi morirono due fratellini e due sorelline. E nel giugno del 1922 le morì una sorella grande di 21 anni. Nel 1920 Concetta riceve il sacramento della cresima. D'accordo con il papà, frequentò le prime tre classi elementari e poi cercò di essere utile in qualunque modo a questa, alla famiglia, una famiglia povera, andando a lavorare nei campi e facendo da mamma ai suoi nipotini, che erano i figli di suo fratello Paolo. E qui con serena disinvoltura si adattava ad ogni necessità, pronta ad ogni sforzo, senza badare a fatiche e a stanchezza. Era felice, gioiosa, le piaceva ridere e scherzare. Frequentava la chiesa parrocchiale regolarmente, sempre disponibile per le necessità della parrocchia, ma era altrettanto pronta a prendere parte alle feste. Era per esempio appassionata per il ballo. Anzi, a questo proposito, decise di ritirarsi dall'azione cattolica a cui era iscritta, perché aveva capito che quell'iscrizione cozzava apertamente con il suo forte desiderio di divertimento. Arriviamo a 16 anni. A 16 anni, un giorno d'inverno, verso il Natale del 1924, Concetta, recandosi alla messa festiva, accusò un dolore acutissimo al piede. Si credette in un primo momento che fosse un semplice dolore, ma il male progrediva. Nel frattempo lei lavorava quanto poteva e come poteva. Un giorno della primavera del 1925, dopo aver lavorato nei campi, per tornare a casa ci impiegò 3 ore, piena di lacrime per i dolori. La visitò il medico del paese e disse che ci voleva un'ingessatura o anche sole di mare, aggiungendo che aveva bisogno di essere sostenuta perché il cuore era debole. Fu mandata quindi a Grado per un po' di giorni e parve lentamente rimettersi. Nell'autunno del 25 il male la assalì in modo inesorabile, obbligandola a letto. Furono cari amici tremendi quei giorni e quei mesi di sofferenza e anche di incertezza, passati sul letto che non era altro che un saccone di foglie di grano turco gettato sopra 2 cavalletti. I dolori erano fortissimi e la tormentavano dalla testa ai piedi. La sorella Angelina, assistita dalla cognata Lia, doveva spesso sollevarla dal letto, tenerla per qualche momento sorretta e poi riadagiarla piano piano. Passarono così 18 mesi senza che Concetta potesse alzarsi. Il medico, intanto, con qualche puntura, ma soprattutto con esercizi di movimento articolare, le ottenne di poter stare seduta. Così i familiari poterono, per diverso tempo, adagiarla ogni giorno sulla sedia per qualche ora, vicino alla finestra. Arrivò il 1929. Il male progrediva. Concetta non poteva neanche più star seduta sulla sedia e godere di quel minimo sollievo. Erano passati anni da quando non metteva piede fuori dalla cameretta. Un giorno alcune amiche l'andarono a trovare con una poltroncina di paglia e si offrirono di portarla fuori dalla stanza per una boccata d'aria all'aperto. Sistemata nella poltroncina, sembrò rivivere. Pareva rivedesse un mondo ormai dimenticato, tanta era la sua gioia e ammirazione nel notare il volo degli uccelli e il gironzolare delle galline per il cortile. E fu su questa poltroncina, portata a mano, che rivide la sua chiesa, li vide il suo paese, i volti dei vicini. Più tardi, grazie ad alcune persone, la poltroncina cedette il posto a una comoda carrozzella. E di tanto in tanto passava dal letto alla carrozzella. Era un passaggio dolorosissimo. Bisognava fosse presa tutta ad un pezzo e collocata a sedere sulla sponda del sedile. Erano dolori atroci, ci viene detto, ma almeno nei pomeriggi dei giorni festivi poteva rivedere un po' di sole, essere condotta per qualche strada, fissare volti di amiche e scambiare anche una parola. Ma 1000 domande la martellavano. specialmente quando sola nella sua stanzetta, mentre tutti i familiari erano al lavoro, nei campi, le ore si succedevano interminabili e si chiedeva: ma che malattia è? La risposta gliela dettero i medici. Era artrite nervosa deformante poliarticolare reumatica. Fino a quando resterò così? Chiese. E qui tutti impietositi le dicevano che presto sarebbe guarita, avrebbe ripreso il lavoro, ma lei capiva che erano le bugie della compassione. Non accettava il suo stato. Perché questi dolori? Diceva. Perché proprio a me? Nei primi tempi, cari amici, non trovò una spiegazione. Non sapeva capire il perché e perché proprio a lei. Mentre tutte le compagne ogni mattina si alzavano e andavano a lavoro, mentre le vicine di casa ridevano e si divertivano, lei, 20 anni, con i sogni di quell'età, era inchiodata su un letto, incapace di sedere e attanagliata dai dolori. Perché? Non sentiva e non voleva né piegarsi né accettare. Era la reazione, possiamo dire, spontanea di una ragazza che, pur buona, non sapeva rassegnarsi a questa condizione. Era grande il suo desiderio di vivere, di muoversi, di correre, di fare. E i familiari e quanti le facevano visita ormai non sapevano più a quali parole, che parole usare per darle un po' di conforto. E per Concetta era inconcepibile il pensiero di doversi adattare a questa croce. E passarono così giorni, passarono mesi, e piano piano comprese. La croce stessa, appesantendole, portò luce, facendole scoprire il perché del dolore. Gesù lavorava nel suo cuore e piano piano la plasmava, la riempiva della sua sapienza, del suo amore, la consolava. Concetta piano piano cresceva, faceva un cammino interiore, ha fatto un cammino interiore enorme, e piano piano comprende che il Signore le chiede questo sacrificio, le chiede di aiutarlo nella salvezza delle anime, e lei accetta. Fu una battaglia dura, e Gesù le mise vicino in questo primo periodo proprio il parroco del paese, Don Nicodemo Zanini, con questo suo fare ridente e sereno. E in lento ma continuo progresso, Concetta arrivò a sentirsi contenta del suo stato, a confessare che non avrebbe voluto cambiarlo con nessun altro. Più tardi dirà al nuovo parroco, Don Eugenio: non ho abbastanza fiato per ringraziare il Signore d'avermi messa in queste condizioni, perché se io fossi stata sana, chissà quanto cattiva sarei stata. Il male, diceva, il male senza rassegnazione è tremendo, ma se c'è la rassegnazione accolta, accettata, quindi donata a Gesù, non è niente. Ci volle molto per arrivare a questo. Era stata una lenta, progressiva ascensione spirituale. Confiderà una sua amica, Maria: in principio del male non potevo rassegnarmi e sudai sangue per arrivare a questo. Mi è stata dura in principio, ma ora sono contenta. E abbracciò, cari amici, veramente la croce con il cuore. La abbracciò per fare del bene a chi aveva bisogno di Dio. Nel 1930 si trovò completamente immobilizzata. Voi pensate, incapace di alzare un braccio, di muovere un dito. Addirittura le mandibole si inchiodarono ermeticamente, costringendo i denti sui denti. Posizione sul letto ininterrottamente, giorno e notte, supina. Quando entrava qualcuno, lo seguiva con la coda dell'occhio perché la testa non poteva girarsi. 3 cose solamente si muovevano: le palpebre, la lingua costretta tra i denti e il cuore. E quella di Concetta era una cameretta povera, come dicevamo, era in una famiglia povera. Pavimento e soffitto di tavole sconnesse, un letticciolo, una sedia, un armadio per indumenti e biancheria e una sola finestrella che permetteva al sole, quanto splendeva, di portare un po' di gioia. E questo era tutto il suo mondo, notte e giorno. La sua giornata iniziava quando i familiari, salendo la scala esterna di legno, entravano nella sua cameretta a portare la colazione. Poi silenzio e solitudine. I familiari erano al lavoro, i bambini a scuola. Di tanto in tanto qualche volto di parente, di conoscente. La visita quotidiana del parroco, in modo particolare, rompeva la dolorosa solitudine. Rivedeva i suoi cari a mezzogiorno e poi alla sera ad ore quasi fisse. D'altro canto, i suoi familiari dovevano lavorare per cercare di sostenersi, di mantenersi. La notte poi dormiva sola. Ma qui un'altra grande croce era proprio il prendere cibo. Cioè le mandibole erano praticamente inchiodate. Si cercava di deporle quindi in bocca, tra la gengiva e la guancia, una particella di dolce o di frutto, e lei piano piano succhiava. Quando i familiari la dovevano lasciare a lungo sola perché occupati nei campi, le mettevano un uovo da sorbire nella piega del gomito sinistro. Le braccia erano sovrapposte sul petto, quasi incrociate. Lì si conservava tiepido. Poi con sforzi, piano piano, riusciva a spingerlo verso la bocca. Con la dentatura rompeva il guscio e in qualche modo riusciva a sorbire quel benedetto uovo. Ma che fatica! A volte ci impiegava più di un'ora. Ricordando più avanti i primi tempi di questa malattia, diceva: mio papà infilzava 3 o 4 biscotti in uno spago e me li metteva al collo come una collana. Allora potevo ancora, lentissimamente, spostare le mie mani dal petto verso l'alto e spingere con grandi sforzi i biscotti verso la bocca. E proprio il papà, Giuseppe, già molto anziano, vedovo, come sappiamo, amava profondamente questa figlia, la chiamava la mia bambina. E quando poteva, e quando non era nei campi, passava lunghe ore accanto al suo letto e le prestava ogni servizio. E più di qualche sera preparò la zuppa di pane, purtroppo, per disattenzione, la salava oltre misura, magari addirittura 2 volte. Lui stesso se ne accorgeva e si scusava con Concetta. Questa volta diceva la zuppa troppo sale. Ma lei accettava lo stesso. E il papà, cucchiaio dietro cucchiaio, gliela deponeva sotto la guancia e Concetta succhiava. Si accorgeva del troppo sale, ma taceva e deglutiva. E per non far capire al papà il suo errore, per non mortificarlo, ogni tanto esclamava: ma che buona questa minestra! Erano, cari amici, sofferenze accettate con rassegnazione, ma soprattutto con amore, e offerte a Dio. E i denti così chiusi non le permettevano una sufficiente nutrizione, infatti occorreva molto tempo per imboccarla. E visto i molti lavori nei campi, i familiari di tempo ne avevano molto poco. Ma anche di questo mai un lamento sulle labbra. Un po' alla volta i denti le si sfaldarono, permettendo qualche apertura, e questo facilitò di più la nutrizione. Era tempo di martirio anche quando la sorella, Angelina, le sistemava il letto, la medicava, provvedeva a quelle che erano le sue necessità. In quei momenti, proprio per i dolori enormi che pativa, si sentiva Concetta pregare: Gesù e Maria, fatemi compagnia. E nonostante proprio le sollecite cure della sorella, la lunga degenza provocò piaghe di decubito. Diventava quindi difficile stare a letto. Concetta si rivolse al San Rocco. Si fece condurre dinanzi alla sua statua, pregò e ottenne la grazia, e finché visse non ebbe quasi più piaghe. Soffriva intensamente, come abbiamo detto, ma un dolore fra tutti era il più sentito, il più acerbo. Per lei il dolore più grande era l'impossibilità fisica di ricevere l'Eucaristia. Infatti non era possibile deporre la particola sulla lingua che i denti chiudevano ermeticamente. Ma accettava anche questo. A una sua amica, Maria, più volte assicurò: «Sto tanto bene qui nel mio lettuccio. Il Signore, le disse, affida a tutti un posto. A me ha dato questo. Io sono contenta. Mi basta che Dio mi dia la forza di sopportare tutti questi dolori». Ed era veramente un'anima tutta e totalmente di Gesù. Diceva un sacerdote che la conobbe, Don Ludovico: da quando l'ho conosciuta, Concetta non ha pregato mai per guarire. Anzi, diceva che se fosse tornata a nascere, avrebbe chiesto al Signore la stessa vita. Aveva capito, cari amici, che il suo posto era in croce, che la sua missione nella vita era soffrire per fare del bene e aiutare tanti fratelli. E la sofferenza di Gesù era la sua sofferenza. Soffriva per i peccatori, affinché si convertissero, per i sacerdoti, affinché fossero sempre più santi, per i missionari, perché allargassero nel mondo il regno di Dio. Peccatori, sacerdoti, missionari, erano le persone del suo quotidiano ricordo e della sua preghiera. E questo lo faceva, testimonia Monsignor Travani, lo faceva non come chi si sente di fare un dono, ma come chi fa il suo stretto dovere. Pensate, un missionario saveriano, tornato dall'Africa dopo 20 anni di apostolato, in una visita alla nostra apostola le domandò se mai avesse chiesto a Dio la guarigione per poter poi partire missionaria. Concetta rispose: «Padre, io sono missionaria del dolore». Un altro cappuccino, padre Cesario da Rovigo, documenta e certifica la gioia che provava nel far visita alla nostra venerabile e dice: «Perché la cara inferma m'assicurava ogni volta dell'assistenza delle sue preghiere. Concetta era una di quelle anime che si offrono vittime per i sacerdoti. Sapremo un giorno quanta partecipazione avrà avuto al nostro ministero sacerdotale e quante anime per essa si saranno salvate». E pregava ogni giorno secondo le intenzioni del Santo Padre e per ottenere vocazioni. E a quanti l'andavano a trovare e le chiedevano preghiera, lei li accontentava e tanto pregava per tutti e diceva: «Io per me non posso pregare mai, io sono sempre venduta a Dio per il bene del prossimo». E la giaculatoria che amava di più era: «O Madonna Immacolata, salvate la Chiesa e la Patria, esaudite chi supplichevole vi invoca». In modo particolare, cari amici, ricordava specialmente quelli che suoi fratelli nella passione stavano soffrendo: gli afflitti, i malati, i moribondi, le anime del purgatorio. E mentre gli altri avevano compassione del suo stato, lei non ne aveva nessuno. Provava anzi grande compassione per quanti soffrivano. Dolori, abbiamo visto, ne aveva molti, eppure ricercava sempre altri piccoli sacrifici riparatori. Pensate, nel cassetto dell'armadio, chiamato il cassetto della provvidenza, teneva delle caramelle regalatele da qualche conoscente. Le offriva a quanti andavano a darle un saluto, a farle visita, e a volte suggeriva a questi visitatori: «Facciamo un fioretto», e lei e gli altri rinunciavano al gusto di una caramella. Esortava a quanti l'avvicinavano, diceva: «Vediamo di essere buoni noi, di soffrire noi per tanti che commettono peccati». E qui una sua amica, Gisella Zamparo, nel 1930, consigliò a Concetta, dopo averci pensato a lungo, di rientrare nell'Azione Cattolica. La risposta fu un deciso no, un no giustificato con umile sincerità. Infatti disse: «No», disse Concetta, «perché nel passato mi sono volutamente ritirata dall'Azione Cattolica per essere libera di divertirmi». L'amica non si arrese e insistette. «Ti voglio nell'associazione», le diceva, «perché mi devi aiutare». «Ma non vedi come mi trovo? Non posso far niente». Accettò invece quando Gisella le disse: «Con la tua sofferenza farai Azione Cattolica». Rientrata così nella gioventù femminile di Azione Cattolica, sentiva profondamente la sua missione di apostolato. Alle giovani e alle bimbe che andavano a visitarla faceva sentire la sua parola, ora forte, ora suadente. Si preoccupava di loro, anche parlando con le loro mamme. E i sacerdoti confessava: «Se posso essere utile a qualcuno, è solo con la tribolazione». Ma proprio, cari amici, l'immobilità di Concetta era fuoco d'amore apostolico. Immobile nel suo letto, dimostrava che apostolato più che muoversi è muovere. E per muovere, questa nostra santa aveva trovato una leva potentissima nella sua croce, sofferenza accettata e offerta. E dopo anni trovava la gioia di ripetere: «Sì, sì, Signore, sono qui per fare la tua volontà», e lo faceva di fronte ad ogni occasione di sacrificio. Proprio in quel periodo aveva più volte anche sentito parlare di Lourdes. Un giorno vollero farle un regalo e quindi le dissero che sarebbe partita per andarci. A chi le ricordava questo viaggio assicurava: «Io non vado a Lourdes per guarire, ma per avere forza di sopportare». E diceva: «Chissà che io non giovi per quelli che non credono». Era questa, cari amici, un'espressione che voleva far comprendere che nella vita ci sono valori più importanti della stessa salute, la fede degli altri, soprattutto la salvezza delle anime. Comunque, dopo giorni di attese e ore di viaggio, arriva il 19 luglio 1938 dinanzi alla grotta. Sulla barella lei non chiese il miracolo della guarigione. Le premeva ottenere qualcosa di più bello, quindi domandò due grazie: saper tutto soffrire nella paziente accettazione della divina volontà e soprattutto poi poter ricevere la Santa Comunione. Era anni che non poteva ricevere l'ostia santa, le mandibole chiuse e i denti serrati non le permettevano di accoglierla, di riceverla. E questo era per lei una sofferenza veramente terribile. E proprio per questo motivo, dinanzi alla grotta, cominciò a piangere. Un sacerdote, che si accorse di questo, si informò della situazione. Allora le fece visita all'asilo dove si era fermato questo pellegrinaggio. Cosa fece? Indossò la cotta e la stola, estrasse la pisside dal tabernacolo e si avvicinò alla barella di Concetta, le si inginocchiò vicino e depose un frammento di particola nell'acqua di un cucchiaio, che accostò poi alle labbra e che le appoggiò sui denti. Concetta pian piano poté deglutire la particola dopo averla assorbita attraverso i passaggi fra dente e dente. Voi pensate un po' per cosa doveva fare per nutrirsi, per addirittura per accogliere questa piccolissima particola. Ma qui non c'era dolore, non c'era pazienza che teneva, la sua gioia era indescrivibile in quel momento. La Madonna aveva esaudito la sua richiesta e da quel giorno, anche nel suo paese, ogni qualvolta lo desiderava, immancabilmente nel primo venerdì di ogni mese, poté sempre ricevere la Santa Comunione fino alla morte. E tornata da Lourdes, a quanti le facevano visita, diceva il suo più bel ricordo. Quello, dice, mi son potuta comunicare finalmente. E il suo desiderio struggente era proprio quello di ricevere ogni giorno, quando era possibile, la Santa Comunione. Dice a questo proposito Don Sier, un altro sacerdote che la seguì, la sua preoccupazione maggiore era quella di non poter ricevere la comunione per causa della bocca che non si apriva e domandava preghiere per questo. Era, lo vediamo veramente, strumento di Gesù e proprio la presenza del Signore in lei inondava di luce anche chi le stava intorno, attirava come una calamita tante anime. E in modo particolare attirava molti sacerdoti e proprio per loro aveva una venerazione e un amore particolare. Dice Don Orfeo, un altro sacerdote, Concetta amava i sacerdoti, li voleva apostoli, soprattutto voleva che il loro servizio pastorale fosse impregnato d'amore. Soffriva quando le riferivano che i sacerdoti fustigavano dall'altare e minacciavano castighi. Non è bene così, diceva, bisogna amare, amare. Nel 1940 desiderò ricevere l'abito del terzo ordine francescano, l'abitino, e lo ottenne il 7 agosto proprio del 1940, e mise la professione e si considerò da allora figlia e discepola di San Francesco d'Assisi. E proprio come il nostro santo, anche lei pregava continuamente. Pregava da sola, nelle lunghe ore di solitudine, pregava insieme a quanti l'andavano a trovare. Ma c'era una visita in particolare che attendeva con gioia ogni sera. Era quella del suo parroco, Don Eugenio. Dal 1941, ogni sera nella cameretta di Concetta, si davano appuntamento il parroco, i familiari e qualche vicino di casa. Recitavano insieme il Santo Rosario e poi si intrattenevano a colloquio intorno al suo letto. Ma arrivarono anche i tristi giorni della guerra. E anche se Mereto, che pure non aveva obiettivi militari, era comunque preso di mira, i segnali di allarme non mancavano e imponevano agli abitanti la fuga nei rifugi. Di giorno e di notte instancabilmente si interrompeva il lavoro e il riposo e ci si metteva al sicuro. Anche i familiari di Concetta correvano al rifugio, ad eccezione della cognata Lia. Concetta ovviamente rimaneva sul suo lettino e restava, lo confessava umilmente lei stessa, tranquillissima tra le braccia di Gesù. Gli anni passavano. Arriviamo nel 1948, quando il Signore chiede ancora un sacrificio. Infatti la nostra Concetta si accorge che la vista comincia ad offuscarsi. Distingueva sempre meno persone e cose. Nel 1949 l'occhio destro era perduto e quasi chiuso. Vi si intravedeva la pupilla completamente asciugata e rossa. Ormai vedeva dinanzi a sé solo delle ombre. E gli occhi, sprofondati nelle occhiaie, le si consumarono, tanti erano i bruciori e le lacrime. L'abbondante lacrimazione aveva addirittura scavato un solco nelle guance. Nel 50 era completamente cieca. E qui nella famiglia diventò ancora più grande lo sconforto, ma nell'animo della nostra santa restarono come sempre la pazienza e la santa accettazione. Anche Gesù sulla croce aveva chiuso gli occhi. Questo buio continuo glielo chiamava una grande grazia del Signore. Diceva: adesso mi è più facile essere buona perché non ci sono distrazioni. E proprio mentre la vista si spegneva, anche l'udito cominciò a indebolirsi. Qui però iniziò una novena di preghiere, finita la quale riacquistò perfettamente l'udito. Gesù l'aveva ascoltata, infatti fino alla morte conservò l'udito perfetto. E così esprimeva a padre Cesario la gioia di poter udire: non vedo più nulla, non muovo la minima parte del mio corpo, mi rimane libero solo l'udito. Anche questo credevo di perderlo. Ho chiesto a Gesù che me lo lasciasse perché volevo, al ritorno della primavera, sentir cantare gli uccelli. E Gesù mi ha esaudita. E l'udito, cari amici, le era prezioso anche per seguire la lettura di tanti libri spirituali. Era felice nel sentirla dalle labbra di qualche amica, godeva nel sentir leggere le vite dei santi, ma le prove non finirono qui. Il papà Giuseppe, oltre ottantenne, era ammalato e bisognoso d'assistenza e non poteva più stare vicino a lei. Inoltre il fratello Paolo, sposato con diversi figli, a causa di una cancrena nell'ottobre del 48 dovette subire l'amputazione di una gamba. E fu questo un duro colpo alla povera famiglia che guardava Paolo, il capo di casa, attaccato al lavoro instancabile come all'unica fonte per il pane quotidiano. E dopo qualche tempo un altro grande dolore dovette la colse proprio nella fu la mancanza della la perdita del papà. Il padre, che aveva 86 anni, morì l'11 novembre del 48. Perdette una tra le persone, se non la persona più cara, quella che le teneva lunga compagnia mentre tutti gli altri erano al lavoro, quella che le portava sorriso, conforto, il papà che prestava amorosamente ogni servizio di cui era capace. E da quel giorno, benché i familiari si alternassero accanto a lei nelle ore fisse, libere dal lavoro, Concetta cominciò a capire che cosa significasse la solitudine. Però ritrovava la sua serenità al pensiero che anche Gesù, sulla croce, si era sentito paurosamente solo e abbandonato. E Gesù, lei lo sentiva vicino, accanto in ogni momento. Era Gesù che dava la forza. Gesù che dava l'amore, la consolazione, la forza di andare avanti e di offrire. Dal 1924 ormai, quindi dagli inizi dell'artrite, dall'artrite nervosa deformante, erano passati tanti anni. E il 1949 portò a Concetta il 25° anniversario, possiamo chiamarlo, della sua crocifissione. E crocifissione, ribadiamo, donata con cuore a Gesù. E qui il parroco Don Eugenio le suggerì di celebrare il 25° di malattia. Concetta, contenta, accettò subito e annunciava a quanti salivano nella sua cameretta questa celebrazione e invitava tutti per festeggiare, lo diceva lei, a parole sue, a festeggiare le sue nozze d'argento con la croce. Le campane, diceva, suonano sempre per le nozze d'argento e tutti fanno grande festa. Anch'io la desidero, anche per me le campane suoneranno di gioia. Quanti l'ascoltavano non capivano quel suoneranno di gioia. E il 24 dicembre del 49 tutto era pronto nella sua cameretta, la vigilia di Natale. Si era anche improvvisato un piccolo altare e Don Ludovico celebrò la Santa Messa. Erano accorsi ad assisterla a tanti paesani che si pigiavano in quella piccola cameretta. e Concetta, con la testa raccolta in un velo bianco, stesa sul suo letto coperto di bianco come l'altare, mentre familiari e paesani pregavano, lei in silenzio diceva a Gesù il suo Magnificat di ringraziamento e rinnovava il suo Fiat di accettazione, il suo sì. Ero ormai ridotta a pelle e ossa, ma quanta gioia per quella messa celebrata nella sua cameretta. Ricorda Don Siro, mi ha detto di aver pianto di consolazione sentendo nella sua camera pronunziare le parole della consacrazione. E qui proprio molta gente, anche del paese, vedendola in quello stato, si ponevano la domanda, ma come fa a vivere in quelle condizioni? Nessuno, cari amici, immaginava, né poteva immaginare quello che le coperte del letto nascondevano. Appariva solo un viso, abbastanza discreto. Quello che non appariva lo ricorda la sorella Angelina, che l'assisteva. Il suo corpo assomigliava ad un'esse contorta. Le gambe si allungavano, sovrapposte verso destra. I piedi erano come rovesciati, in modo che vi si sottoponevano dei cuscinetti di sabbia per sostenerli, altrimenti non avrebbero trovato riposo. Il ginocchio destro era accavallato sul sinistro e bisognava cercare di evitarne il contatto per evitare le piaghe, e ci si metteva qualche benda. Il corpo appariva contorto, con la testa ripiegata che costringeva le corde del collo a restare sempre tese. Le braccia erano inamovibili e incrociate strettamente sul petto, tanto che i gomiti avevano prodotto sui fianchi come due cavità. La cassa toracica aveva perduto le sue dimensioni, sembrava schiacciata. Risaltavano fortemente le ossa del bacino, del femore e degli omeri. La sola pelle aderiva all'osso. Il suo parroco diceva: era una cosa veramente che muoveva stupore ad ammirazione il vedere quel corpo costretto all'immobilità assoluta e negli ultimi anni ridotto a pelle e ossa, tant'era rinsecchito. Ma proprio la presenza del Signore in lei, veramente piena e totale, quello che sconcertava tutti era che, e quello che più si ammirava in lei, era la sua serenità costante, la sua serenità, la sua gioia. E lei, che era crocifissa e si considerava per questo una privilegiata, confessava: sarei stata una grande peccatrice se Dio non mi avesse salvato con questa malattia. E sentiva ed esprimeva gratitudine per tutti quelli che le erano intorno, anche per tutti quelli che le facevano del bene. Per esempio, nel 49, al notaio, recatosi nella sua cameretta per la divisione dei beni del papà, Concetta disse di volersi spogliare di ogni suo avere e di cedere tutto al fratello, in riconoscenza, fratello Paolo, come riconoscenza dell'assistenza che la sua famiglia prestava. Era assai grata ai familiari per ogni più piccolo servigio. Esprimeva più volte la sua riconoscenza, per esempio, alla sorella Angelina, sorella che, sbrigate le faccende nella propria casa, correva ogni mattina da lei per assisterla. Arriviamo nel 1951, quando la si volle condurre in un pellegrinaggio a Loreto. Lei non manifestò alcun entusiasmo, anzi diceva: non vedo e non vedrò nulla, mandate un'altra al mio posto. Esortata dai parenti, si convinse e l'11 settembre dello stesso anno partì per Loreto. Per lei era un vero pellegrinaggio e già aveva belle pronta la grazia da chiedere a Maria Santissima, cioè la perseveranza nell'accettare la volontà di Dio e la possibilità di soffrire per la salvezza delle anime. E qui, nel viaggio di andata, pensando alla Santa Casa di Nazareth, in cui Maria Santissima ebbe l'annuncio dell'angelo, in cui iniziò la sua maternità, casa in cui vissero e lavorarono con Maria, Gesù e Giuseppe, sentì nel cuore sempre più intenso il desiderio di poter vedere quelle mura, di poterle toccare, ma era cieca. Ebbene, con semplicità, chiese a Maria Santissima, di poter vedere la sua santa casa. Entrata nel santuario, stesa sulla barella portata da due dame dell'Unitalsi, ebbene, cari amici, vide chiaramente la santa casa. E tutti presenti, fra gioia e stupore, constatarono questa grazia straordinaria, grazie a questo miracolo. Finché Concetta restò a Loreto, vide la santa casa e il santuario come se i suoi occhi fossero vivi. Ripartita da Loreto il 13 settembre, ricadde il buio sugli occhi e ridiventò cieca come prima, ma la gioia era immensa. Nel viaggio di ritorno nel suo paese, ai compagni di viaggio e ai suoi paesani descrisse con ricchezza e concretezza di particolari com'era la Santa Casa, com'era la finestrina, parlò della scodella, dell'immagine della Vergine. Ritornata nel buio della cecità, dopo aver visto tutto questo, disse: «Non mi interessa di vedere altro. Ho perduto la vista degli occhi, ma ho l'occhio della fede». E proprio verso la Madonna nutrì un amore tenerissimo. Ne aveva l'immagine nella cameretta, e quando nei pomeriggi festivi, 2 o 3 volte all'anno poteva uscire dalla cameretta, si faceva condurre sulla carrozzella alla chiesa parrocchiale e voleva essere fermata davanti alla statua in marmo della Madonna della Salute. E davanti a lei effondeva con fede e umiltà la sua preghiera, e più che la salute implorava la rassegnazione da colei che era stata ai piedi della croce, madre del crocifisso e corredentrice del mondo. Ed ogni giorno c'era per Maria Santissima il suo rosario, e questa preghiera quotidiana era la sorgente da cui attingeva buona parte della sua serenità. Pensate, lo confidò lei stessa un giorno a Don Siro che le aveva chiesto come avesse imparato l'arte di soffrire con gioia e come riuscisse ad unire la sua croce a quella di Gesù. Concetta rispose che ciò che essa sapeva sul valore della pensate che bella frase, ciò che essa sapeva sul valore della sofferenza l'aveva appreso pensando e pregando il Santo Rosario, quindi meditando i misteri del Santo Rosario. E per lei poi, in modo particolare, rimasta orfana di mamma 1 anno e mezzo, la Vergine aveva preso proprio il posto della madre. E le sue condizioni, la sua straordinaria serenità, dicevamo, tiravano attorno al suo letto molti visitatori. Visitatori che entravano in quella misera cameretta non per curiosare, ma per guardare e per imparare. E non soltanto dal vicinato, dal paese, ma anche dai paesi vicini, da Udine addirittura arrivava gente e chiedeva di vederla. L'arcivescovo di Udine, Monsignor Nogara, in ogni visita pastorale a Mereto saliva immancabilmente a portare a Concetta la sua benedizione. Poi, in chiesa, diceva ai fedeli le sue impressioni e diceva: «Voi, qui a Mereto, avete un parafulmine». E anche i bambini del vicinato erano spesso in camera da lei e ci stavano volentieri, anche se a volte lei, perché non stava bene, perché insomma i dolori erano più forti del solito, non ne aveva voglia, pregava con loro, li esortava alla bontà, all'obbedienza, allo studio, li convinceva ad essere buoni, pronti ad ogni comando. Aveva loro insegnato a rivolgerle mattina e sera questo saluto: «Sia lodato Gesù Cristo». E di tutti era la confidente, nonostante il suo parlare chiaro e senza mezze misure. E qui le coppie di fidanzati, prima e dopo le nozze, andavano da lei che aveva anche per loro raccomandazioni, un'immaginetta sacra da offrire. Volevo anche, per esempio, parteciparvi a quello che lei non poteva ovviamente scrivere, però dettava. È una piccola, brevissima, sono 2 righe che riprendiamo da una lettera che aveva inviato a 2 ragazze di Messina che erano della stessa associazione mariana di cui lei faceva parte. E detta questa lettera, dice: «Io vi ricordo tutte voi socie congregate mariane nelle mie preghiere perché voi possiate fare del bene a tutti quelli che hanno bisogno e siate orgogliose perché la vera felicità si sente e si prova solamente facendo del bene e stando uniti a quel Gesù che tutto ha dato e sacrificato per noi, mentre la gran parte di noi gli volta le spalle. Coraggio sempre, mie care sorelle in Gesù. Il suo sacratissimo cuore ha bisogno di anime piene di spirito di sacrificio per riparare a tanti oltraggi con cui continuamente viene ferito il suo cuore tanto misericordioso. Verso tanta ingratitudine ci sia di esempio Santa Teresa del Bambin Gesù, che coi suoi sacrifici e con le sue offerte ha tanto consolato il cuore di Gesù e il cuore di Maria». E qui, cari amici, la nostra martire, sia in casa che fuori casa, svolgeva un apostolato fecondissimo. Immobilità, sofferenza, cecità non sono ostacoli per la provvidenza per poter salvare gli uomini. E un prete in particolare, Don Orfeo Domini, che era cappellano a Nogaredo, sacerdote che andò spesso a far visita a Concetta, ne fa un quadro, secondo me, molto preciso e ci dà la chiara idea di chi era quest'anima santa che il Signore aveva scelto. Vorrei leggervi quelle che sono le sue impressioni, perché veramente è il quadro chiaro di Concetta Bertoli. Scrive Don Orfeo Domini: Concetta riceveva con una cordialità festante. La sua conversazione era sempre animata, piacevole. Si interessava di tutto e di tutti. Non faceva pesare la sua infermità. Nessuna posa di martire, e lo era autentica. Nessuna mostra di santità. Tutto semplice, naturale. Ma nella conversazione si scopriva in lei una grande ricchezza di valori umani, insospettati in una donna vissuta per tanti anni quasi segregata ai margini della società. Era rimasta una donna con tutte le sue sensibilità, affinate dalla grazia, da un lavoro interiore che occultava a tutti. Aveva il pudore delle anime sante. Solo parlando con lei, osservandola in profondità, si poteva capire la grandezza del suo animo. Amava la compagnia, il conversare, soffrì molto la solitudine, ma furono quelle lunghe ore forzate di silenzio, di abbandono, di solitudine, che maturarono la sua persona. Che cosa sia passato tra lei e Dio, tra la sua umanità dolorante e Cristo crocifisso, lo sa solo lei. Noi, dice Don Orfeo, vediamo l'effetto: una serenità, una pace, una cordialità, una forza d'animo che facevano un tragico contrasto alla realtà di un corpo deturpato, martoriato. Era una donna che amava la vita, che era fatta per vivere, che voleva vivere. Invece quasi tutta la vita fu inchiodata ad un letto. Era una donna, dice Don Orfeo, che amava la vita, e perché l'amava, amò la gioventù, che è la manifestazione più bella e gioiosa della vita stessa. Per me è uno dei lati più meravigliosi della sua esistenza, che questa donna, negata alla vita, deforme, avesse sempre pronta ed aperto il dialogo con la gioventù, forse perché la sua esperienza di vita si era fermata agli anni giovanili. Giovani, fidanzati, militari, sposi novelli accorrevano alla sua stanza e lei li accoglieva con gioia, li voleva allegri, sereni, entusiasti della vita, buoni. Si divertiva un mondo alle serenate con l'armonica. Insegnava loro il bene senza posa, con semplicità, scherzando, ridendo con loro. Quando mi riferiva alle loro visite era felice, ridevano perfino i suoi occhi che andavano spegnendosi. E i giovani accorrevano. Trovavano in lei una persona che li comprendeva, li amava. In lei l'entusiasmo, la vita giovanile, si univano alla saggezza, all'amore materno. Autentici valori umani ed una santità eroica. Si usciva dalla sua cameretta, calmi, sereni. Si fidava della provvidenza e nelle sue braccia, cari amici, viveva tranquilla. La stessa cameretta era il regno della povertà. Nessun frate, precisa Don Siro, ha una cella così miserabile. D'inverno era freddissima e alla proposta di essere trasferita in un ambiente più caldo e per una più umana assistenza, non ne volle sapere, dicendo che stava bene così. Concetta visse nella povertà senza lamenti, contenta, anzi diceva: la povertà è una ricchezza. Sono contenta come sono una signora, diceva, e quando morirà sarà il falegname del paese a regalarle la bara. Viveva staccata da ogni cosa, in vera nudità francescana. Anzi, trovava da dividere. Erano piccole cose, ma sapeva privarsene. Le aveva avute in dono e le distribuiva con carità. Venuta per esempio a conoscenza delle situazioni più tragiche, cercava di aiutare, con la preghiera, offrendo la sua sofferenza, cercando di dare quello che poteva. Donava tutto, e il Signore ascoltava le sue preghiere, le sue implorazioni. Per esempio, durante la Seconda Guerra Mondiale, le SS tedesche prelevarono da Mereto 19 giovani e li inviarono rinchiusi in automezzi piombati a Rakek e poi a Postumia per lavori forzati. Fra questi c'era il nipote di Concetta, Mario. Un po' alla volta, con fatiche immense tra pericoli vari, quei giovani erano riusciti a fuggire e arrivavano in paese uno, due, tre alla volta, ma Mario non si vedeva e i familiari cominciarono a preoccuparsi, cioè temevano per la sua vita. Zia Concetta iniziò una novena di preghiere e proprio la sera del nono giorno ecco Mario rientrare in casa e gettarsi al collo dei suoi cari. E ancora, lo stesso padre Cesario sperimentò in modo particolare l'assistenza implorata a Concetta. Racconta padre Cesario: trovandomi a tenere un corso di predicazioni a Villa Marzana di Rovigo, d'inverno con la neve, mi sentii tanto debole di forze che temevo di dover sospendere la predicazione. Praticamente stava per svenire. Mi raccomandai allora a Concetta e subito mi sentii robustito e gagliardo, sicché potei continuare e portare a termine la mia predicazione. E ancora, per esempio, nello stesso paese viveva un uomo che non voleva saperne di riconciliarsi con il Signore. I parenti confidarono a Concetta questa loro croce, temevano per la sua anima. Concetta assicurò le sue preghiere e l'offerta dei suoi dolori. Ebbene, cari amici, quell'uomo si ravvide, si confessò e si comunicò. Ma quante altre grazie ha ottenuto la nostra Concetta Bertoli per tante persone che glielo chiedevano, e quanti ne ha fatti dopo la sua morte. Possiamo solo dire che la provvidenza, cari amici, che sembra con la sofferenza distruggere una vita, a volte ci sembra così, conosce invece i grandi miracoli della grazia, miracoli operati proprio da questi silenziosi apostoli della croce. Ma arriviamo agli ultimi giorni. Comprende e presente che è arrivato il momento di partire. E nel 56 confida a Maria, questa sua amica: sento che quest'anno morirò. Viveva nel desiderio che Gesù la portasse con sé, ma viveva nella serena contentezza di poter dare ancora qualche cosa alle richieste del Signore. Infatti un giorno, poco tempo prima di morire, confidò a Monsignor Travani: non so come ringraziare Dio del dono della vita, mi aiuti lei a ringraziarlo. Quante cose grandi possiamo fare noi in questo mondo per il Signore. Il 4 marzo del 56 cominciò a bruciarlo una febbre persistente. Concetta capì che era arrivata l'ora. Diede allora le ultime disposizioni per il suo ultimo vestito, vestito che doveva essere semplice, tutto bianco, con la fascia celeste come era vestita la Madonna di Lourdes che 18 anni prima aveva visitato. Diceva ai familiari che papà e mamma l'attendevano di là. Intanto parlava sempre meno e solo se richiamata rispondeva. Nei tre giorni che precedettero l'agonia volle e poté ricevere la Santa Comunione. L'ultima fu quella di martedì 6 marzo. Accompagnò le preghiere con il sacerdote e i presenti. Nel frattempo entra in agonia. Nella cameretta c'è silenzio, dolore in tutti, e i paesani si accostavano al suo letto in un continuo pellegrinaggio. Lei non parlava più, i suoi occhi erano come disfatti, faceva impressione nell'estrema magrezza, ma era serena, tranquilla, come sempre. Il parroco, con voce commossa, le chiese: Concetta, sei contenta di soffrire ancora per i peccatori? Concetta, che non poteva più parlare, annuì con la testa. Fu, cari amici, l'ultimo sì alla volontà di Dio. Rivelava come Gesù nell'agonia, sete di sofferenza per la salvezza del mondo. E il cardinale Fernando Cento, ammirando questo ultimo sì di Concetta, commenta: quale mistero questo di anime innocenti fatte vittime sullo stesso altare in cui si immolò Gesù. Erano trascorsi, pensate, 31 anni di malattia, di cui 26 nell'immobilità e 5 anni di cecità. Quasi tutta una vita di 48 anni donata nella sofferenza al Signore. E la domenica dell'11 marzo del 1956 Gesù chiama a sé questa apostola del suo cuore, del suo amore. E lo stesso parroco, il giorno della morte, scrive: la sua missione in vita fu la sofferenza. Illuminata dalla fede, comprese il valore inestimabile del dolore sofferto cristianamente. Infervorata dalla carità, pervenne fino al punto di domandare dolori a Dio per i bisogni della Chiesa universale e parrocchiale e soprattutto per la moltiplicazione e santificazione dei sacerdoti. Ha compiuto nelle sue membra doloranti e crocifisse quanto manca alla passione di Cristo per il suo corpo mistico che è la Chiesa.